Incontri di Gianfranco Fabi. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare. Volevo dirtelo, adesso stai a sentire. Non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, con Jovanotti, speriamo che sia questo, quello che va in onda adesso, il nostro più grande spettacolo. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano, buongiorno e buon pomeriggio a Giorgina Gallo. Giorgina Gallo, presidente e amministratore delegato dell'Oreal. Buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Jovanotti, come mai le piace Jovanotti? Ma in particolare questa canzone mi dà molta carica, molta energia. È una canzone che sento al mattino alcune volte prima di iniziare a lavorare, mi dà lo sprint necessario. Una, penso, delle mie caratteristiche è avere grande energia fisica. Grande energia, una carriera tutta all'interno dell'Oreal, mi sembra. L'Oreal è una delle maggiori multinazionali nel settore dei cosmetici. Come mai è finita, anzi, ha iniziato la carriera all'Oreal, sta continuando adesso ai massimi livelli in questa azienda? Ma devo dire, nulla era pianificato. L'Oreal conoscevo pochissimo. All'inizio conoscevo qualche prodotto dei parrucchieri, quindi la sottostimavo alquanto. L'ho conosciuta perché avevo bisogno di fare una tesi, sono andata a chiedere se potevano accogliermi, i manager in quel momento mi hanno detto no, siamo impegnati, non possiamo seguirla, lasci comunque il suo curriculum. Io lo lasciai, intrapresi la tesi in un'altra azienda, al gruppo finanziario Tessile. E poi, mentre facevo la tesi, L'Oreal mi chiamò, abbiamo bisogno urgentissimo di te. Ovviamente per me fu una grande occasione, feci la tesi e iniziai lo stage all'Oreal. Loro mi dissero devi assolutamente finire però entro dicembre, io feci tutto per finire entro dicembre. E quindi era una tesi profilata sul marketing? Sì, era in quel caso sull'abbigliamento e sui famosi negozi Facis. Ah, ho capito. Beh, quindi già una prima collocazione torinese, all'Università a Torino, quindi entrata nel mondo del lavoro a Torino. L'Oreal è la multinazionale che è un po' divisa tra Milano e Torino. Sì, attualmente io ovviamente ho iniziato in un Oreal torinese, c'erano già però degli uffici del gruppo su Milano e devo dire che tutto si è un po' accorpato nel 2003, quando abbiamo fatto effettivamente un po' una fusione delle varie società, e una parte dell'Oreal è su Milano, 3 business unit, e un'altra parte è su Torino, la quarta business unit più lo stabilimento. Quindi c'è una struttura appunto di mercato commerciale e una struttura anche produttiva, vedremo magari più avanti. Io tornerei un attimo proprio al suo inizio, alla sua formazione professionale, al fatto di vivere l'università a Torino, ecco, e di entrare in un mondo, già quello dell'abbigliamento è un mondo che guarda alla bellezza, che guarda all'estetica. C'era un po' questa passione appunto per la bellezza fin dall'origine, fin dagli studi? Sì, beh, io ho fatto il liceo classico e teoricamente dovevo fare medicina, quindi non c'entra assolutamente nulla. Tradizione di famiglia, quasi percorso obbligato e segnato. Poi sono venuta a conoscere di questa business school, che era un ramo di economia e commercio di Torino, che era assolutamente all'avanguardia all'epoca, stiamo parlando di 30 anni fa, quindi, ed era assolutamente innovativa. Professori che erano manager, grandi manager, tempo pieno, tutto uno studio fatto non su teoria ma su business case, quindi mi è piaciuto moltissimo. E l'idea di farla e di rompere con gli schemi e gli obblighi familiari era perché secondo me si potevano inventare i prodotti e inventare pubblicità. Quindi anche, diciamo, a Torino, all'Università di Torino, si guardava l'insieme del sistema economico e non solo la Fiat, si diceva a quel tempo tutta Torino era Fiat centrica, invece guardava invece a una diversificazione anche produttiva, una realtà diversa. Sì, devo dire che in questa università ovviamente c'erano molti manager Fiat, però c'era una grande visione anche su casi, per dire, stranieri, interventi di personaggi esterni. Devo dire, era molto innovativa nel panorama italiano all'epoca. Ecco, quindi è entrata L'Oréal, questa grande azienda multinazionale, e come ci si trova in un'azienda multinazionale in cui l'idea che molti hanno è quella che quello che si deve fare viene deciso dai quartieri generali, quindi da Parigi. Quindi in Italia era così, si doveva fare quello che decidevano gli altri, magari mettere in opera al meglio però delle strategie decise altrove? No, quando ho iniziato era tutto molto delocalizzato. L'Oréal era, sì, centralizzata ovviamente su Parigi, ma si lasciava molto ai paesi la possibilità di sviluppare prodotti, ed eravamo in competizione con la Francia, vinceva il migliore, quindi ogni paese poteva portare le sue, diciamo, idee e le sue proposte prodotti. Poi c'è stata la fase 10 anni fa invece della globalizzazione, e quindi le aziende hanno cercato, per poter globalizzare, di accentrare le strategie e gli sviluppi prodotti dagli headquarter negli altri paesi. Adesso stiamo vivendo, forse questa è anche un po' la crisi, un riavvicinamento invece delle squadre nei paesi al proprio mercato, molta più prossimità, capire che cosa vuole il consumatore locale, e quindi c'è di nuovo un fenomeno di specificità paese che bisogna assolutamente prendere in carico nel paese. Quindi si ritorna a lavorare insieme all'headquarter, ma per sviluppare i prodotti, le necessità e colmare i gap che ci sono nei singoli paesi. Ecco, l'Italia è un mercato importante per L'Oréal, appunto. È un mercato importante sia perché è un mercato, sia perché è una realtà in cui L'Oréal ha degli stabilimenti produttivi. Sì, L'Oréal ha uno stabilimento produttivo che è vicino a Torino, a Settimo Torinese, ed è il primo stabilimento nel mondo per volumi prodotti dell'Oréal. Su circa una quarantina di stabilimenti siamo i primi, più di 300 milioni di prodotti cosmetici partono dallo stabilimento vicino a Torino e vanno in 35 paesi nel mondo. Quindi ecco, è una realtà produttiva importante, una realtà produttiva che è cresciuta, è uno stabilimento, magari lo vedremo poi nella seconda parte di questo programma, in cui sono state realizzate anche delle operazioni sempre nell'ambito della bellezza, però della sostenibilità ambientale. Mi sembra, già avete realizzato appunto uno stabilimento a impatto zero. Sì, è un cantiere, non è un progetto, come dicevamo la scorsa settimana quando abbiamo presentato tutta la stampa e alle autorità. È un cantiere impatto ambientale zero, CO2 zero, che si realizzerà a fine 2013. È un work in progress, è un progetto che sta è la crescendo. Bellezza dell'ambiente, perché non c'è solo la bellezza delle persone per vivere bene, è anche importante. Ecco, l'ambiente. Appunto, ne parleremo poi nella seconda parte. Tornerei poi sulle strategie dell'Oréal, sul mercato italiano. Che specificità ha il mercato italiano nel settore vostro, nel settore della cosmetica, nel settore della bellezza, soprattutto femminile, ma anche maschile, indubbiamente? Ma diciamo, in generale, se guardiamo rispetto agli altri mercati europei, non ci sono delle differenze sostanziali di bisogni dei consumatori, sono abbastanza, diciamo, simili. Il mercato italiano ha sicuramente un'esigenza maggiore di estetica, di lusso, di presentazione, di status, cosa a cui gli italiani danno molta importanza. Gli italiani poi sono molto ricettivi all'innovità, alle innovazioni, rispondono molto molto bene, e anche, devo dire, l'altra caratteristica è la estrema frammentazione del mercato italiano. In Francia esistono praticamente solo ipermercati, piuttosto che in Germania del drugstore. In Italia la cosmetica si vende dalla profumeria al piccolo supermercato, all'ipermercato, quindi molta frammentarietà. Qual è il prodotto che vi ha dato più soddisfazione negli ultimi anni? Ma diciamo che grossissimi progressi un po' in tutti i tipi di distribuzione sono stati fatti sui prodotti per il viso, quindi sulle creme, sulla prevenzione dell'invecchiamento. Quasi tutte le nostre marche hanno, grazie alla nostra ricerca scientifica e quindi a dei nuovi brevetti, a delle molecole, diciamo, veramente potenti, a sviluppare dei prodotti che aiutano effettivamente a combattere un invecchiamento che è inevitabile, progressivo, ma che si può effettivamente attenuare. Incontri. più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Ancora con Giovanotti, buongiorno, buon pomeriggio a quanti si ascoltano, buongiorno, buon pomeriggio a Giorgina Gallo, presidente amministratore delegato dell'Oreal, che è qui con noi questo pomeriggio per illustrarci quello che sta avvenendo, appunto una grande multinazionale della cosmetica che ha in Italia uno dei suoi punti principali, uno dei suoi mercati principali, ma anche uno stabilimento che è il più grande, ci ha detto Giorgina Gallo nella prima parte, che è il più grande che l'Oreal abbia in tutto il mondo, uno stabilimento a settimo torinese, in cui peraltro sono state realizzate, stanno per essere realizzate, sono in progetto delle iniziative per la sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di raggiungere entro un paio d'anni, mi sembra, un impatto zero con l'ambiente. È così, Giorgina Gallo? Sì, c'era un impegno preso dal nostro presidente davanti a tutti gli stakeholder che entro il 2015 avremmo ridotto del 50% le emissioni di CO2, l'utilizzo dell'acqua e la produzione di rifiuti. Noi ci siamo dati una cosa un po' più ambiziosa, entro il 2013 essere a zero impatto di emissioni di CO2. Quindi anche con un sistema di riscaldamento e di raffreddamento attraverso dei sistemi appunto che non hanno impatto ambientale, ecco, questo richiede un grosso sforzo anche dal punto di vista finanziario, è una sensibilità ambientale che si riflette anche sull'immagine dell'impresa. Sì, diciamo che abbiamo fatto un accordo molto innovativo con la società Pianeta, che è la municipalizzata per l'energia di Settimo Torinese, quindi è un bellissimo accordo, se vuole, fa privato e pubblico, e questo è quello anche che lo rende innovativo, perché anche la lungimiranza degli amministratori del comune di Settimo ha permesso che ci potessero aiutare in questo progetto che parte da fonti rinnovabili, quindi prendiamo l'energia da fonti rinnovabili e, ripeto, siamo a zero emissioni di CO2. Tutto questo parte da un progetto che si basa sul lavoro che era stato fatto, tra l'altro innovativo, dai tecnici dell'Enea e da Carlo Rubbia, quindi per la prima volta su scala, non test, ma su scala industriale, viene utilizzato e viene concretizzato questo progetto, peraltro anche nel nord Italia, perché il progetto si basa quindi sul sole, sull'energia solare che si concentra su queste grandi parabole, certo, fatte di specchi. E quindi un uso di un'energia verde, un'energia rinnovabile innanzitutto, che non inquina e che non è dipendente dall'estero, dalle importazioni dall'estero, come sono i combustibili fossili. Ed è un obiettivo quindi possibile. Che cosa producete nello stabilimento di Settimo Torinese? Allora, produciamo principalmente shampoo e balsamo della marca Fructis, così come della marca Provo, e poi produciamo i mascara L'Oréal Paris e Maybelline, più tutte le polveri cosmetiche che sono Cipria e Fard, e li produciamo per 35 paesi nel mondo. Quindi sono anche prodotti che a livello proprio di produzione industriale produrrebbero degli scarti, produrrebbero probabilmente degli inquinamenti, che vengono tuttavia abbattuti completamente con le vostre tecnologie. Sì, come ho detto, non lavoriamo solamente sulla riduzione delle emissioni di gas nocivi, ma anche sull'utilizzo minore possibile dell'acqua, anche se in Italia non è il problema magari numero uno quello, certo, dell'acqua, ma soprattutto quella della riduzione dei rifiuti dalle produzioni. Questo è un obiettivo che ci vedrà già entro il 2015 una riduzione. Siamo già bassissimi, ma l'obiettivo è di ridurre il 50%. Sì, ridurre le emissioni, e si parla appunto di quasi 8.000 tonnellate all'anno di CO2 in meno che grazie a queste tecnologie si evita di disperdere nell'ambiente. Quindi un polo produttivo di Settimo Torinese, un polo produttivo appunto all'avanguardia, e quindi vuol dire che è ancora possibile fare industria in Italia. Ma sì, e tra l'altro, ripeto, è abbastanza strano che una società francese possa dare il massimo delle produzioni, quindi così importanza, a uno stabilimento italiano. Non è solamente il nostro virtuosismo sull'ambiente che ci ha fatto guadagnare questi volumi di produzione, li abbiamo strappati ad altri paesi, perché abbiamo effettivamente della competitività economica nei confronti di paesi che, si sa benissimo, sono anche molto più competitivi di noi. Questo è stato possibile grazie a cosa? A degli investimenti lungimiranti fatti anni fa, sui macchinari, che possono effettivamente migliorare moltissimo la produttività. Due, lo devo sottolineare, ha una grossa collaborazione di tutti i nostri dipendenti in stabilimento, dagli operai agli ingegneri, che hanno effettivamente con noi creato le condizioni, quindi un rapporto, devo dire, vincente, perché lo stabilimento fosse e sarà stabile in questo paese. Sì, sì, sarà una realtà, appunto, una realtà produttiva che potrà mantenere la propria competitività. Questo è importante perché qualche problema dal profilo industriale l'Italia ce l'ha complessivamente come sistema paese. Quindi come vede le prospettive dell'Italia, l'Italia che sta attraversando un guado abbastanza difficile? Ma le vedo ancora possibili, perché se guardo appunto la nostra esperienza, un po' la diffidenza che c'è anche nel caso delle multinazionali verso certi paesi, verso sistemi amministrativi o manager eccetera, devo dire che siamo nel nostro caso riusciti a rimeritarci la credibilità, l'autorevolezza. Questo è possibile con un grosso lavoro, penso che, come abbiamo fatto noi, se posso permettermi, dovrebbe un po' fare il paese. Penso che la credibilità sia stata ripresa, penso che l'attrattività del paese possa essere ancora ripresa, perché idee geniali, persone geniali in questo paese ce ne sono, ecco. Bisogna rendere tutto molto snello, perché se vedo una differenza, lavoro con molti stranieri e che trovano la burocrazia, l'amministrazione, la lentezza italiana esasperante. Come ci giudicano a Parigi? Io penso che oggi, devo dire, come sempre, gli italiani riescono a reagire all'ultimo momento con delle super performance, quindi sembriamo magari lenti e dormienti fino all'ultimo, e poi dopo abbiamo invece questa capacità di uscire con degli exploit straordinari, quindi questo ce lo stanno riconoscendo. Penso ci sia anche alcune volte un punto di invidia nel confronto. Su certe cose probabilmente sì. Ricordo Giorgina Gallo, presidente amministratore delegato di L'Oréal, vive appunto tra Milano, Torino e Parigi. Qual è la differenza più forte che vede tra il sistema italiano e la realtà francese, il sistema francese, anche a livello proprio di vita all'interno di un'impresa? In Francia le aziende sono molto supportate dallo Stato, dall'amministrazione, moltissimo, e questo rende i rapporti anche con i partner di un'azienda molto più trasparenti, molto più regolamentati, molto più, alcune volte anche più rapidi. Sono molto supportati, quindi sia le relazioni tra le aziende e gli stakeholder, sia la vita dei lavoratori, cioè lo Stato è molto presente, soprattutto nei confronti delle donne. Ecco, delle donne, in questo tema siamo nella settimana, abbiamo vissuto l'8 marzo, siamo nella settimana in cui si è parlato molto di donne che stentano un po' a trovare, ma è un po' una ritualità ormai da anni, tentano a trovare il loro spazio all'interno delle imprese, a fare carriera. Ecco, c'è un libro che è appena uscito, si intitola Valorizzare le donne conviene, che cerca di dimostrare come le donne siano anche un valore aggiunto in più rispetto a, ma non facciamo forse confronti con i maschi, sono una risorsa. Ecco, come ha vissuto lei la sua carriera all'interno del L'Oréal? Il fatto di essere donna è stato un fattore di favore o qualche volta di ostacolo? Devo dire che ho avuto la fortuna di entrare in un'azienda che già appunto 30 anni fa era apertissima a far carriera anche a delle persone, però ciononostante ero una delle poche, se non la sola, e quindi è stato difficile perché c'è effettivamente la difficoltà di adeguarsi nell'atteggiamento, nei discorsi, in un ambiente che allora era tipicamente maschile. Quindi è stato difficile, ho studiato la controparte cercando di, non dico di copiarla, ma di adattarmi. Però non ci sono, diciamo, dei vincoli, dei limiti strutturali. Si tratta anche, da parte delle stesse donne, di avere il coraggio di imporsi all'interno della società. Sì, io dico sempre che il grande passo è sempre quando una donna può essere al comando senza necessariamente modificare completamente la sua personalità, perché sennò sarebbe uno stress notevole essere diversa per 10 ore al giorno. Certo. Quindi è possibile, penso che molte cose stanno già cambiando, comunque ne vedo tante, però è anche vero che ai vertici, quando sono in alcuni comitati esterni, un'associazione, poi alla fine siamo pochissime, per non dire che sono la sola. E allora ci avviamo verso la conclusione. Che cosa consiglia come atteggiamento verso la cosmetica da parte delle donne, ma anche degli uomini? Siamo pari anche su questo fronte, anche gli uomini hanno la loro ambizione ad essere belli. Ma la cosmetica non bisogna viverla come qualcosa di superficiale o qualcosa di cui vergognarsi. Aiuta effettivamente a sentirsi meglio, aumenta, devo dire, l'autostima, perché comunque quando ti senti un po' migliore da qualsiasi punto di partenza tu sia, sei più forte quindi anche nelle relazioni con gli altri, sei più forte nel lavoro, e questa è una spinta in più per riuscire in quello in cui dobbiamo riuscire, cioè avere anche noi la nostra parte nel mondo. Cioè avere fiducia in se stessi, in fondo. Molto importante. È la cosa più importante, cioè avere fiducia nelle proprie possibilità e qualche ritocchino ogni e tanto. E la cosmetica serve ad aumentare la propria stima, la propria fiducia. Credetemi. Grazie mille, grazie. Con questa osservazione, con questo appunto slancio di fiducia verso se stessi, in fondo il futuro ci appartiene. Ringraziamo Giorgina Gallo, presidente e amministratore delegato di L'Oréal, di essere stata con noi questo pomeriggio, così come ringraziamo Luca Cremonese, Stefania Tagliaferri in redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, l'appuntamento è per domenica prossima.